a monte della contestazione sta proprio Fico Italy World, che con il parco agroalimentare, il più grosso mostro agroalimentare, la galassia pure per quanto ci riguarda, inaugura l'ennesimo triste capitolo della Bologna City of Food, in cui appunto si marcia sulla tematica del cibo avendo semplicemente come fine quello dello della speculazione, perché è chiaro che sotto questa immagine, questa autorepresentazione in salsa green, i grandi, in certo senso, punti della rivoluzione proposta da Farinetti sono sostanzialmente il profitto, lo sfruttamento e la cementificazione. Questa inaugurazione, che appunto ha anche nel suo aspetto di proprio turistico tutta una serie di aspetti abbastanza inquietanti, come l'allevamento animale che viene in un certo senso esposto e proposto al consumatore turista, non a caso la parte del macello e dell'assassinio animale è l'unico tassello che manca da questa catena a tutta una serie di manifestazioni parossistiche della spettacolarizzazione. Ricordiamo anche lo stand di Piadine Romagnolo, in cui è allestito una spiaggia finta con tanto di torneo di campo di beach volley. È chiaro che tutta una serie di lotte si sta muovendo contro Fico. Noi come Mensa e The Rich abbiamo già in un certo senso promosso tutta una serie di incontri, di iniziative che provavano a porre a criticità questo grande parco giochi della Bologna City of Food, la Disneyland del cibo, con anche dei momenti di piazza, tra cui ricordiamo sicuramente il corteo che abbiamo organizzato contro Italy nel dicembre scorso, perché non è solo la tematica del cibo ad essere in un certo senso coinvolta in questa fiera, grossa fiera della speculazione del profitto. Tanti altri temi che in un certo senso sensibili si vengono raccolti dentro questo tema. Infatti si stanno muovendo già tutta una serie di istanze provenienti da varie zone, da varie parti della militanza, che contestano le forme tradizionali di sfruttamento del lavoro che pesano sulla logistica, come le nuove forme previste nei termini dell'alternanza scuola-lavoro. Entrando nello specifico della giornata prevista per l'8 dicembre, la biciclettata della Madonna, in ossequio alle celebrazioni delle festività comandate, abbiamo in un certo senso riflettuto con i compagni e le compagne della ciclofficina Ampio Raggio, che come la Mensa e The Rich attraversano gli spazi di XM24, per toccare un altro nodo sensibile, un altro tema sensibile che ruota intorno al tetro universo di Fico, ossia quello della viabilità, del traffico, dell'immissione di sempre più veicoli motorizzati che, col benestare e la complicità dell'amministrazione cittadina, riempiranno le strade e della periferia e della città di Bologna, con navette dedicate, uscite della tangenziale appositamente preparate. Di conseguenza abbiamo deciso di fare una parata su due ruote che, senza l'ausilio di nessun motore se non quello umano, come recita appunto la tre giorni organizzata dalla Cineofficina Ampio Raggio, attraversi la città e si diriga verso Fico, provando a organizzare un momento comunicativo e contestativo davanti ai suoi cancelli. In questi giorni abbiamo visto anche che scricchiola la compagine societaria, no? Perché l'avvio di Fico è stato al di sotto delle aspettative. A proposito di mobilità e di anche frame che Fico vuole rappresentare, basti vedere l'ingresso, che è una sorta di casello autostradale, e quindi questo già la dice lunga. Ricordiamo nello specifico l'appuntamento, da dove parte, sì, a che ora? Ecco, noi ci ritroveremo alle 12 negli spazi di XM24 per un pranzo autogestito di socialità, come sempre organizziamo dentro gli spazi e fuori nei punti sensibili della città, alle 12, ripeto, e poi dalle 14 cominceremo a raccoglierci per partire dagli spazi di XM24 in direzione verso Fico.